Un'altra riunione che ricordo, tenuta sotto gli auspici degli studenti del collegio tecnico, trattava l'argomento del nuovo amore. Le nostre emozioni dovevano essere riordinate. Era necessario che imparassimo a sentire correttamente e l'amore costituiva un elemento perturbante nella nuova disciplina che doveva fare di noi strumenti militanti della nuova democrazia. L'amore era un problema che andava organizzato e risolto come ogni altro. Molti membri del partito, disse l'oratore, si trovavano perplessi di fronte all'amore. Alcuni lo consideravano una questione puramente animale, altri ammettevano che turbava il loro lavoro. Il nuovo amore non doveva essere soggetto al lascivo desiderio proprio all'amore pre-rivoluzionario, bensì basato sul rispetto reciproco e su di uno stesso ideale politico. Era impossibile che individui appartenenti a classi in conflitto fra loro potessero amarsi. Era impossibile che persone aventi concetti feudali potessero amare nella maniera progressista. Le emozioni personali esistevano soltanto in funzione della coscienza di classe e delle ideologie politiche. E naturalmente, continuò l'oratore, una gioviale madre di 5 figli dalle guance rosse che faceva un giro di conferenze per tutto il paese predicando il nuovo sentimento, l'amore non deve mai interferire col lavoro. Quando ebbe finito di parlare, alcuni giovani di entrambi i sessi si alzarono per obiettare che secondo loro l'amore incideva molto sul lavoro. Non abbiamo tempo di passeggiare, di guardare il tramonto, di scambiarci romantiche sciocchezze. Il tempo è prezioso. Dobbiamo ricostruire il paese. Quelli di noi che si dedicano a questo devono rinunciare a ogni legame personale, persino ai genitori. Dobbiamo sacrificare tutto alla patria e alla causa. Mi sentivo egoista. E antiprogressista, mi chiedevo quali fossero le ideologie politiche di Marx. Non ne sapevo nulla. Eravamo di concezioni contrastanti. A Hong Kong molte donne inglesi mi ritenevano inadatta a essere la moglie di Marx a causa della mia razza. In Cina, sapevo come avrebbero giudicato Marx nella nuova Cina. Ci amavamo? Ma tutto era avvenuto in un altro continente. Agitata e sperduta, mi sentivo terribilmente lontana da lui. Poi riflettei che, dopo tutto, la natura umana è quella che è. Fra pochi giorni, pochi mesi, pochi anni, anche quei giovani avrebbero finito con l'amare. I convinti appassionati avrebbero ancora amato i tiepidi. Il buon lavoratore avrebbe supplito al fannullone, il commissario politico modello avrebbe comperato un rossetto alla sua irriverente e inefficiente amante. La nostra benedetta debolezza umana avrebbe risolto il problema di tutta quell'inumana perfezione. Molte cose ingenue e puerili venivano dette e fatte, ma questo era un nuovo cielo e una nuova terra, e ogni saggezza e maturità richiede tempo ed esperienza. Sen ed io, oltre ad alcuni occidentali ritornati cinesi e a molti missionari, soffrivamo di rimorsi di coscienza. Ci sentivamo colpevoli unicamente perché non avevamo sofferto la fame, perché non avevamo sentito le sue lame staccare la carne dalle ossa. Fra quello che noi intendevamo per cibo e quello che per cibo intendeva il povero contadino c'era una differenza essenziale, animale, che ci spaventava e ci copriva di vergogna. Dai tempi della mia fanciullezza fiorava ancora un ricordo. Nel vagone ristorante di un treno che attraversava la pianura settentrionale da Pechino a Hankou, i miei genitori, mia sorella ed io sedevamo attorno alla bianca tovaglia e attraverso il finestrino vedevamo la pianura completamente inondata, oceano di acqua scura. Qua e là spuntava la cima di un albero, qua e là un tetto, e su quei tetti vi era gente accovacciata. I camerieri vennero a servirci la prima portata. E per l'intero pasto, ricchissimo e variato, mangiammo guardando fuori dal finestrino, mentre il treno attraversava rapido la pianura, mentre sui tetti circondati dalle acque, quella gente attendeva la morte. Questo ricordo mi aveva perseguitata per anni ed ora era più che mai vivo in me, immune dall'ardore politico o religioso, e non portata alla dedizione. Il mio punto debole è il bisogno immediato e personale, la consapevolezza della fame, della sofferenza e del dolore a portata di mano, di vista e di udito. E ora il ricordo lontano di quel giorno mi faceva sentire terribilmente colpevole. Scoprii che anche alcuni missionari della piccola città erano turbati da rimorsi di coscienza. Sembrava loro di aver posto tutto il loro lavoro su basi sbagliate, di essersi limitati a scalfire in superficie senza mai adattarsi ai bisogni del paese che erano venuti a illuminare. Le loro anime erano turbate perché capivano di aver sbagliato nel loro modo di agire. Quello che avevano ritenuto giusto non lo era più, e anche il male non era più completamente tale. Il problema del bene e del male li confondeva. I maestri di scuola a Bailey si erano apertamente dichiarati in favore dell'ordine nuovo. Il loro lavoro non veniva ostacolato e nessuno di loro venne poi incluso nella campagna che doveva attaccare i missionari. I commercianti e i missionari sono venuti in Cina insieme. Lo sfruttamento imperialista e culturale, le prediche, le ruberie si sono dati la mano e insieme dovranno andarsene. La campagna antimissionaria era una brutta cosa e divenne sempre peggio. Sconcertante era la miscela di verità e di falsità negli attacchi. Motivi, intenzioni, fatti e fantasie sfociavano sempre nella politica. In alcuni casi, per eccitare l'odio, si ricorreva alla più volgare calunnia. I missionari uccidono i nostri bambini. Abbiamo trovato centinaia di cadaveri di bambini in una tomba. Se foste medici e aveste visto le condizioni di quei bambini raccolti dai missionari, avreste capito che nessuno di loro poteva essere salvato. Perché non accusate i genitori che li gettavano a morire per le strade e nei letamai pubblici invece di coloro che li hanno raccolti? Fra i missionari della cittadina ce n'era stato veramente uno che, fingendo di occuparsi di ricerche scientifiche, aveva fatto dello spionaggio e a causa di quest'unico individuo tutti divennero sospetti. Le riunioni della comunità cristiana cinese erano un miscuglio di studio politico, di rinnovamento religioso e di salti mortali spirituali. Il nuovo cristianesimo deve appoggiare il programma comune, siamo tutti cinesi. Con le confessioni pubbliche, il pentimento e in seguito con le denunce dei traditori e dei controrivoluzionari, i nuovi cristiani si liberavano delle eresie dell'aggressione culturale e religiosa. Se il Partito Comunista non ci avesse aperto gli occhi, gridava un cristiano esaltato, saremmo certamente diventati le vittime condannate dallo sfruttamento imperialistico religioso. Mi chiedevo se la riforma in Inghilterra avesse prodotto tali frenesie di fervore, di illuminazione e di intensità patriottica. Fu in questa atmosfera di inquisizione, con riunioni che si aprivano e si chiudevano con preghiere, che un alto personaggio ecclesiastico accusò un suo collega di nutrire idee controrivoluzionarie, di dare asilo a giornalisti stranieri e a spie e di essersi appropriato dei fondi della Chiesa. Indignata, l'intera congregazione udì l'elenco dei crimini perpetrati da quest'uomo fin dal 1931. «Non pensate che un criminale del genere meriti la morte?» gridò l'accusatore. E unanimi da buoni cristiani tutti risposero: sì, a morte, a morte! Che sarebbe accaduto ai cattolici cinesi? Ce n'erano pochi nella cittadina, la loro interpretazione della Bibbia non permetteva compromessi. Avevano una fede e una disciplina, e ad esse dovevano rimanere fedeli. In alcuni di loro c'era quel profondo coraggio e quella convinta fermezza che, soprattutto in Cina, dove la fede nella virtù è incrollabile, destano rispetto e ammirazione. Mi sembrava che mentre il cattolicesimo chiedeva al suo discepolo di dedicarsi tutto a se stesso, facendo della salvezza della sua anima lo scopo della vita, il comunismo esigeva una totale rinuncia dell'individualità, una completa abnegazione in un grande progetto di cui l'individuo non sarebbe mai giunto a vedere il compimento. Non mi sentivo a mio agio con la comunità cristiana protestante e quando una delle sue donne, che sembrava avermi presa in simpatia, venne a trovarmi, fui fredda e ostile. Ora che siete stata con noi e avete visto il nostro nuovo spirito, vi farete cristiana? Mi chiese raggiante. Se le avessi detto che non appartenevo a nessuna religione e che intendevo rimanere così, avrebbe certo cercato di convertirmi. Quindi le rispose educatamente: no, non posso farmi cristiana, sono già cattolica. Ed essa mi lasciò in pace, una pace che avevo comperato con la menzogna. Una delle nostre riunioni ebbe questo tema di discussione: che cosa ha compiuto la Chiesa cristiana nella società durante gli ultimi 2000 anni a confronto di quello che ha compiuto il Partito Comunista Cinese nella società cinese nel breve periodo di 30 anni. Risultò, naturalmente, che il partito si era dimostrato assai più efficace della Chiesa, quale organo di evoluzione spirituale e fisica. Quella primavera la piccola città aveva avuto le sue prime elezioni, con rappresentanti di ogni ceto: le donne, le scuole, i cristiani, i contadini, i bottegai. Molti delegati non avevano mai partecipato a una riunione e alcuni sapevano appena leggere e scrivere, ma dopo un certo tempo tutti si erano dedicati con entusiasmo allo svolgimento del loro lavoro. Il popolo deve imparare a interessarsi di molte cose al di fuori della famiglia. Era il principio e la fine della libertà. Molti piccoli negozianti e poveri contadini che prima non avevano nemmeno osato lamentarsi a bassa voce dei torti che venivano loro fatti, si vedevano ora richiedere critiche e consigli. D'ora in poi avrebbero potuto godere di un certo controllo sul loro avvenire. Per loro questa era libertà, libertà vera, entro l'orbita della loro comunità, assai più concreta di quella libertà nebulosa che permetteva loro di esprimere un'opinione su argomenti che non li riguardavano e che non comprendevano nemmeno bene. Questa è libertà disciplinata, la nuova democrazia popolare. La libertà di non partecipare non c'era più, ma in cambio c'era la libertà di critica sulle basi dei nuovi principi. Non poteva esistere dissenso per quanto riguardava la politica generale, ma per quello che riguardava i problemi locali, concreti, non si faceva che incoraggiare la discussione pubblica. Non era possibile starsene in disparte. Nessuno poteva rimanersene a casa, nessuno poteva rifiutarsi di parlare, tutti dovevano presentarsi alle parate e ai cortei, tutti dovevano partecipare. Per questo c'erano le corti del popolo. Questa è la giustizia del popolo. In passato l'ingiustizia si comperava e si vendeva a porte chiuse, ma noi non temiamo la verità, il popolo giudicherà. Molte volte si rendeva effettivamente giustizia, ma non sempre. Ci fu il caso del medico accusato di aver causato la morte di due pazienti per negligenza. Il processo si svolse pubblicamente e altri medici vennero chiamati a testimoniare. Fu riconosciuto colpevole e punito. Ma ci fu anche il caso del paziente che era morto per cause naturali. Il decesso era avvenuto in un ospedale tenuto da missionari e in quel momento ogni appiglio era buono per screditare i missionari. L'ospedale venne accusato di negligenza. Ciò non significa nulla, è morto in seguito a negligenza, disse la corte del popolo quando i periti dimostrarono che il paziente era stato affetto da malattia incurabile. Noi non ci intendiamo di queste cose, ripeterono quando le lastre radiologiche vennero esibite per provare che era stato fatto tutto il possibile. È morto in seguito a negligenza. L'ospedale venne multato. Rozza giustizia terrena. O si trattava soltanto di un nuovo genere di ingiustizia? Nella mia vita ho assistito a qualche esecuzione pubblica, dato che in Cina quasi tutte le esecuzioni avvengono pubblicamente. La prima volta fu a Pechino, quando avevo solo 7 anni. All'insaputa dei nostri genitori, la nostra Ama portò mia sorella e me ad assistere a un'esecuzione che doveva avere luogo fuori dai cancelli della pace celeste. Però non ditelo alla mamma, ci raccomandò. Sono persone cattive, Amà? Molto cattive. Amà crollò il capo, sbarrando gli occhi. Sono malvagi comunisti condannati a una lenta morte. E infatti la morte fu lenta, poiché la tortura durò a lungo. Ricorderò sempre l'urlo della folla, la puzza di sudore e l'acre sapore del mio vomito, quando l'uomo venne issato un'ultima volta per essere mostrato alla folla, prima di venire decapitato. Così, di tanto in tanto, la mia esistenza era stata punteggiata da queste esecuzioni. Comunisti, sempre comunisti e banditi rossi venivano mandati a morte. A Pechino, a Nanchino, a Chongqing, ovunque. E ora la ruota era diventata un circolo. Il sangue si paga col sangue. Rozza giustizia terrena. Ora, invece di rimanere semplici spettatori, e siamo tutti ancora elisabettiani quando si tratta di esecuzioni, partecipavamo tutti attivamente, vocalmente, tutti eravamo coinvolti. Non c'è stato abbastanza denaro per salvargli la vita, soleva dire il popolo quando la procedura della giustizia gli rimaneva ignota, poiché l'abitudine all'ingiustizia è profondamente radicata. Ma ora il denaro, anziché comprare la vita, la metteva in pericolo. Il denaro risultava fatale a chi lo possedeva. 30 anni di guerra civile, tanto sangue versato da essere ripagato con altrettanto sangue. La giustizia raggiungeva molti scopi: quello di gettare il terrore nel cuore di coloro che ancora erano liberi e di liberarsi degli indesiderabili, ma anche quello di togliere di mezzo gli ultimi elementi di opposizione alla nuova disciplina, di costringere tutti alla sottomissione e di creare una tale tempesta di denunce da distruggere ogni lealtà personale. E poiché ogni esecuzione era il simbolo del popolo che si purificava dal male, un'espressione della volontà del popolo, a nessuno era permesso di stare zitto. Tutti dovevano partecipare, tutti dovevano approvare. I numerosi opportunisti che sempre compaiono nella scia di ogni rivoluzione facevano grande danno non soltanto nei villaggi, dove per insufficienza di elementi provati il governo doveva impiegare nuove reclute male addestrate per organizzare l'ammasso del riso, bensì anche nelle città. Ansiosi di rapidi risultati, resi brutali dall'ebbrezza del potere da poco acquisito, essi rovinavano la buona impressione ottenuta dai comunisti esperti, ed erano causa di denunce senza fine, specialmente dopo l'inizio della campagna contro le spie e i reazionari. Siamo molto prudenti, puniremo soltanto se avremo in mano le prove del reato. Ma in Cina è tanto difficile raccogliere prove, è tanto difficile separare la menzogna dalla verità. Essere denunciati significava essere sospettati, e la posizione della persona sospetta era pericolosa. I sentimenti ribollivano con troppa violenza. E sebbene soltanto coloro che avevano versato sangue dovessero morire, non sempre era così. La folla ama gridare «Morte, morte!» senza pensare. Simili alle giornate d'inverno, che sempre più si accorciano, incalzate dalla notte implacabile, così il controllo e la disciplina si stringevano sempre più, consolidando l'entusiasmo con il pungolo dell'odio. Tornarono alcuni studenti, che indossavano ancora camicie americane e cravatte sgargianti e il cui bagaglio era variopinto di etichette. Il loro arrivo coincise con la fase culminante della campagna di odio ed essi non tardarono a pubblicare violenti articoli sul giornale locale, denunciando le persecuzioni di cui erano stati vittime in America. Che ne diranno i vostri amici laggiù? Non ve ne saranno certo grati. Io ho scritto contro il sistema, non contro il popolo. Non ho tradito i miei amici. Noi siamo contrari all'imperialismo. Questo è il nostro paese ed era necessario farlo. Uno studente in medicina ritornò alla piccola città dopo un'assenza di qualche settimana. Perché siete partito? Perché avrei dovuto scrivere una tesi politica per ottenere la laurea. Qui non è permesso a nessuno di non occuparsi di politica, così me ne sono andato. Ma siete tornato? Sono tornato. Il mondo esterno è duro. A Hong Kong ci sono centinaia di medici disoccupati perché la loro laurea non vi è riconosciuta. La mia famiglia è qui e questo è il mio paese. Si costruiscono moltissimi nuovi ospedali e i corsi di medicina sono stati abbreviati perché c'è carenza di medici. Io sono un medico e solo gli uomini mi interessano. La politica va e viene, ma gli uomini rimangono. Scrisse la sua tesi, prese la laurea e più tardi si arruolò volontario per la Corea. Sen ed io andammo ad assistere alla sfilata delle forze armate. Le armate della liberazione erano molto diverse dal Kuomintang, e il fatto che non ci fossero più saccheggi, stupri e incendi costituiva ancora una piacevole sorpresa per gli abitanti della piccola città. Mentre i soldati sfilavano, il popolo applaudiva con entusiasmo. Questo è l'esercito del popolo, questo è il nostro popolo. La carriera militare era diventata popolare. Persino gli intellettuali, sempre contrari al pericolo personale, si arruolavano nell'esercito. Se qualcuno oserà attaccarci, lo sconfiggeremo. Sfilavano in continuazione volti vivi e orgogliosi, condannati dalla loro virtù e dalla loro devozione, come altri lo sono dai loro crimini. Sappiamo per che cosa stiamo combattendo, per un mondo migliore, per la patria e per il popolo. Forse è davvero così. Bisogna dare agli uomini un ideale per cui morire, affinché possano credere di non aver vissuto invano. La sfilata infinita continuava. Gli occhi di Sen brillavano di entusiasmo. Era una visione meravigliosa. Siamo in tanti. Che importa se non siamo equipaggiati? Solo il coraggio individuale conta. Il coraggio dell'essere umano contro il potere della macchina. Potremmo sempre soffocare un mare di fuoco con un mare di uomini. Sen sapeva quello che diceva, poiché più tardi in Corea fu proprio così. Convinta che la Cina fosse minacciata e impaziente di aiutare un'altra terra asiatica invasa dall'imperialismo bianco, così la vedevamo noi, la terra degli antenati andò in guerra. E sebbene non tutti i soldati fossero volontari, ce ne furono molti. Nella piccola città parecchi si arruolarono. La guerra di Corea era popolare e consolidava il potere dell'ordine nuovo. Per i cittadini della piccola città fu una vittoria. Ecco cosa può fare un popolo fermo e deciso. Abbiamo dato scacco matto alla più grande potenza del mondo. Noi, gente pacifica, abbiamo saputo arrestare gli imperialisti guerrafondai. Sen ed io li vedevamo partire, ma mi sentivo triste perché tanti di loro sarebbero morti ed io non ho mai capito perché gli uomini debbano desiderare di morire. Sen invece era orgoglioso e compiaciuto. Tornerai a Hong Kong? Sì, suppongo che finirai in America come tanti leccapiedi dell'imperialismo. Non credo, non voglio fuggire, ma ora devo ritornare a Hong Kong. Han, sei troppo egoista, troppo emotiva. È tutto per un romantico attaccamento a un uomo che non è del tuo paese, che non appartiene al tuo popolo e che non è nemmeno libero. Non era proprio così, ma non potevo spiegarlo a Sen. Devo vedere chiaro in me stessa, Sen. Sono terribilmente confusa, ma non fuggirò e un giorno mi ritroverai in Cina, quando vedrò chiaro in me stessa. Sen tentò di persuadermi, dicendomi cose sagge e ragionevoli. Mi fece sentire piccola e meschina e piena di vergogna, poiché tutti desideriamo essere buoni, nobili e altruisti, e io non sono buona. Io non voglio essere altruista. Voglio essere me stessa. La tua concezione di vita personale e soggettiva è completamente feudale, Han. Sei una reazionaria. Eppure, Sen, a Hong Kong molti mi chiamano comunista perché amo la mia patria. E così partii.